figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buongiorno da Valentina Furlanetto, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24. Franco Basaglia, lo psichiatra, lo ricorderete, che ha dato il suo nome alla legge 180 sulla chiusura dei manicomi. Franco Basaglia va molto di moda in televisione perché di recente lo si è visto anche da una fiction televisiva che è stata appunto data sulla Rai. Però evidentemente non va così di moda in Parlamento, visto che la legge a lui dedicata è in discussione. E 170 associazioni in tutta Italia hanno firmato pochi giorni fa un appello in difesa della legge 180. L'appello è stato lanciato per prima da Psicoradio, una testata radiofonica bolognese nata 4 anni fa, che coinvolge nella redazione il Centro di Salute Mentale di Bologna e anche molti pazienti psichiatrici. Ne abbiamo parlato con la direttrice Cristina Lasagni. Ci sono delle proposte di legge che in questi giorni vengono discusse alla Commissione Affari Sociali della Camera e sono proposte di legge che tendono a cambiare alcuni punti della legge 180. Questi progetti di legge sono progetti di legge che contengono degli elementi che a noi preoccupano molto. Ad esempio? In particolare c'è l'ultimo progetto di legge, quello presentato dall'onorevole Ciccioli, che introduce un presidio che nella legge 180 non c'è, che è il TSOP, cioè trattamento sanitario obbligatorio prolungato. Se passasse questo trattamento sanitario obbligatorio prolungato, sarà possibile obbligare una persona a curarsi, cosa che la legge 180 non prevede perché è contraria proprio allo spirito dell'idea di cura, che deve essere prima di tutto riconoscimento del proprio star male e poi fiducia in un percorso che il medico propone. Il trattamento sanitario obbligatorio oggi esiste ed è limitato a 7 giorni che servono per, in casi acuti, ricondurre la persona, diciamo, a una ragionevolezza che gli permetta di intraprendere un percorso di cura. L'altro punto problematico, il prolungamento del trattamento sanitario, è possibile secondo la nuova legge che venga fatto anche presso centri non pubblici, dice anche presso altri centri accreditati. Quindi centri privati. Questo punto è quello che desta più preoccupazione. Cioè, come diceva un nostro redattore paziente che ha fatto anche il TSO, quindi sa che cosa vuol dire, lui dice: a me viene paura all'idea di un ricovero obbligatorio in un centro privato, perché mentre quando sono nel pubblico, io so che il pubblico non ha nessun interesse economico a tenermi ricoverato perché gli diventa un costo, in un centro privato è chiaro che il sospetto che ci sia un profitto viene. I familiari invece, perché al di là del di ovviamente il principio che credo che condividiamo tutti, poi a volte ci sono anche delle situazioni difficili da gestire dai familiari, non possiamo sfuggire da questo discorso. Cosa ne pensano? Noi abbiamo avuto appunto moltissime adesioni di associazioni di familiari, tra cui l'UNASAM, che è l'associazione storicamente più grande, che ha più di 150 delegazioni in tutta Italia. Queste idee così drastiche, no? 6 mesi di cura obbligatoria più altri 6 mesi di cura obbligatoria possono dare delle risposte alle angosce delle famiglie che non sanno come fare. Non è detto che diano delle risposte vere al problema della persona che sta male. Cioè, non è detto che è davvero l'avvino verso un percorso di cura. Mi capita ogni giorno appena sveglio, mi sento le vocine nel cervello. Radio lavora anche Marco, che è un paziente psichiatrico e un redattore. Sentiamo cosa ne pensa. Personalmente non sono contro il TSO classico della legge 180 attuale, perché l'ho subito e credo che in quel momento fosse l'unica cosa, perché effettivamente nelle condizioni, nello stato di allucinazione, di tante cose che era in quel momento, il TSO era necessario, cioè non sono contro il TSO, sono contro invece a come fatto il TSO magari, perché nel senso che le spiego una cosa, io ho fatto un TSO di 2 settimane e non ricordo assolutamente nulla di quello che ho passato in quelle 2 settimane, non ho nessun ricordo, non perché l'ho rimosso, ma perché ero talmente imbottito di medicinale, di altro, che non mi ricordo nulla, forse il mio era un caso particolare, non lo so, però di fatto… Marco, quando è avvenuto tutto questo? È avvenuto circa 7 anni fa, avevo 50 anni, mi è successo, ripeto, può capitare a tutti, è una cosa che può capitare a chiunque. Sono invece contro alla cura obbligatoria, cioè alla cura prolungata obbligatoria. E la condivisione non la si ottiene con la contenzione, perché quando uno è in contenzione subisce e basta, pertanto scende l'autostima, scende tutto, mi spiego? Non hai, di fatto diventi un automa o un vegetale di fatto. Come ci vuole tale, una condivisione, ecco. È una condivisione, perché questa è la base della legge 180 ed è anche di fatto la realtà della vita che noi viviamo effettivamente, no? Cioè io ho dovuto cambiarla completamente la mia vita, però ho accettato di doverla cambiare per fare meglio. Nella mia vita ho fatto di tutto, ho fatto dal militare come sottufficiale degli incursori, consigliere comunale, assessore comunale, il direttore di un USL, capo del servizio, direttore del personale di una grossa associazione qui di Bologna che è la CNA, poi ho lavorato sempre come funzionario alla Confartigianato, cioè ho vissuto una vita da protagonista. Insomma, una vita anche con incarichi importanti. Certo, io il crack l'ho avuto perché non riuscivo più a reggere i ritmi, ero arrivato a un punto in cui il lavoro, la missione mi sovrastava talmente tanto che non ce la facevo più, e di conseguenza ho cominciato a bere, ma non bevevo perché ero un alcolista, bevevo semplicemente per autocura, perché non prendevo psicofarmaci, non prendevo nulla, di conseguenza avevo cominciato anche a bere. E poi mi sono accorto proprio un giorno che stavo veramente male, quanto una pratica che avevo davanti, una pratica in ufficio, una pratica che ci mettevo 5 minuti a farla, l'ho tenuto lì una settimana e non dormivo la notte perché pensavo a quella pratica che avrei dovuto fare il giorno dopo. Sono andato in delirio con l'allucinazione. Anche a livello personale, familiare, immagino che ci siano state delle ripercussioni. È evidente, la prima cosa che è successo, mia moglie dopo 2 giorni che ero dentro mi ha detto ci separiamo, ma dico guarda che non l'ho detto io prima ancora, mi spiego? Cioè nel senso che te avevo detto che in queste condizioni non volevo che mio figlio, un figlio di 18 anni, mio figlio mi vedesse in queste condizioni, perché sei poi in condizioni di talarda umana. Io ho passato 14 mesi ricoverato, 40 giorni di coma, 34 kg di peso e sono salvo per miracolo. Grazie a una rete di protezione, diciamo, perché poi bisogna più affidarsi anche a questa rete e assumere la consapevolezza di avere un problema. Questo problema lo si può vincere sapendo di averlo. E quindi arriviamo adesso a questo allarme che Psicoradio e varie associazioni stanno lanciando, perché non venga messa, insomma, non si difenda la legge Basaglia soltanto nelle fiction, ecco. Sì, questo è allucinante perché, ripeto, la legge Basaglia solo bisogna essere applicata in tutte le regioni, non solo in alcune, ci sono ancora tante cose da sistemare, lei pensi solo una cosa molto semplice, una stupidaggine, quando io sono stato ricoverato, la cosa che mi opprimeva di più era l'ora d'aria, cioè noi avevamo un'ora che ci permettevano di uscire, ma in gruppo, ed uscivamo per le vie di Bologna con gli infermieri in camice bianco. E tutti ci dicevano, guardate i matti che escono. Ecco, queste sono le cose da cambiare, sono piccole cose, ma la tua dignità va sottoterra. Io il terrore, io mi mettevo sempre in pigiama, la dottoressa mi diceva, ma vada fuori. E non ci volevo andare, perché la mia dignità veniva annullata completamente con quei camici bianchi che mi giravano attorno. Anche sui farmaci, perché io capisco che ci voglia parecchio tempo, mi spiego? Sì. Per tirare fuori i farmaci, per scegliere quello giusto, quali sono quelli più adatti, quelli più meno adatti, però i farmaci sono importanti, ma quello che è veramente importante è il rapporto interpersonale che tu instauri col tuo psichiatra, perché senza quello tutti i farmaci del mondo non contano niente. Di fatto, se vuoi veramente uscire, ci vuole dei progetti come per esempio Psicoradio, che ti permette di riabilitarti dal punto di vista mentale, cioè di poter, dal punto di vista culturale, dal punto di vista di tante cose, mi spiego? E la prospettiva, insomma. E la prospettiva, sì. In questi giorni si parla molto del Festival di Cannes e anche noi vogliamo parlare di cinema, in particolare del Cinema Senza Barriere, un servizio culturale continuativo attivo nelle città di Milano, Roma e Bari per le persone con disabilità della vista o dell'udito, insomma persone che non ci vedono oppure che non ci sentono. Una di queste persone è Chiara, una non vedente che è appassionata di film. Io sono sempre andata al cinema e comunque ho sempre seguito film anche senza audiocommento. Però sicuramente avere una voce che in sottofondo commenta le immagini del film è sicuramente una cosa molto più, cioè è interessante e comunque dà delle possibilità diverse di seguire il film al 100%, quindi sicuramente la prima volta è stata molto particolare, entusiasmante direi. Poi piano piano chiaramente i film si sono avvicendati un mese per mese e quindi diventava comunque è diventata una cosa abbastanza diciamo normale, abitudinaria, però sempre molto interessante, molto bella, e infatti cerco sempre di non perdermi mai un film di questa serie, perché comunque appunto permettono anche nei film che magari abbiamo già visto di seguirli sicuramente in un altro modo. Tecnicamente, anche per farlo capire alle persone che ci ascoltano, grazie a una cuffia a raggi infrarossi, se non sbaglio, viene diffuso un commento audio nel quale voi ricevete delle informazioni aggiuntive rispetto ai dialoghi sonori del film, è così? Sì, esatto. In pratica durante le musiche o durante le pause tra i dialoghi, durante i silenzi, ci vengono diffusi in cuffia dei commenti audio alle immagini che vengono che via via passano durante i dialoghi. Questa iniziativa è anche per i non udenti, quindi per le persone sorde, e oltre ai dialoghi vengono riportate nei sottotitoli le indicazioni sui rumori, suoni e sulla colonna sonora. Esatto. Senti, ti ricordi un film che ti è piaciuto particolarmente? Gran Torino, per esempio, Gli abbracci spezzati di Almodovar, oppure sono stati tanti film che hanno fatto The Queen, l'hanno fatto un paio di anni fa. E per questa puntata è tutto, un saluto da Valentina Furlanetto, vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima 14:15 sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore.